Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su Controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, 58esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Domenica 20 gennaio 2013. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Lorenzo Guadagnucci, Silvia Vallecchi e Valentina Reggioli. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Sull'Appennino tra Bologna e Firenze, a Sasso Marconi, l'estate scorsa abbiamo visitato per Restiamo Animali il centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica Monte Adone. Abbiamo sentito parlare di questo centro in occasione del salvataggio del lupo Navarre, soccorso proprio dai volontari del centro nel torrente in cui stava morendo assiderato. Il lupo Navarre sopravvisse grazie a una respirazione bocca a bocca improvvisata da una volontaria del centro e il suo ritorno alla vita, per quanto purtroppo breve, richiamò l'attenzione delle cronache. Il centro svolge quello che, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere l'unico compito che spetta agli uomini nei confronti delle specie animali. Aiuto in caso di bisogno, assistenza, cura, minimizzando i contatti e restituzione degli animali alla vita selvatica il prima possibile, salvo i casi in cui questo non sia più possibile. Gli animali ospitati dal centro sono per lo più vittime di incidenti stradali, o di caccia, oppure oggetti di sequestro, come i grandi felini tenuti alla catena per fare foto sulla spiaggia a Rimini, fino alle scimmie usate da ambulanti e poi abbandonate. Il viaggio attraverso i diversi ospiti del centro sarà emozionante. Conosceremo gli scimpanzé, i leoni, le tigri, ma anche una cinghialina cucciola e cervi di ogni genere. Di ciascuno di loro, Mirka Negrini, fondatrice del centro e presidente dell'associazione che lo gestisce, ha saputo raccontarci la storia, spesso segnata da sofferenze e, purtroppo, dall'egoismo umano. Prima di partire per il nostro viaggio attraverso gli animali ospitati dal centro, chiediamo a Mirka Negrini un aggiornamento. Cos'è successo da agosto, quando siamo stati da lei, a oggi? Quest'anno è stato un anno bello intenso, ricco di emozioni e di ogni possibile esperienza che si possa immaginare. Le più importanti sono state sicuramente, dopo l'esperienza in me negativa del lupo Navarre, la bellissima esperienza con la lupa che abbiamo potuto rimettere in natura quest'estate, appunto, dopo 3 settimane di cure. Lei era stata investita da un'auto e quindi aveva un grave trauma cranico, si è ripresa e è andata per la sua strada, l'abbiamo chiamata Petra. Poi ci sono state altre esperienze piccole e grandi di tanti animali che comunque sono stati recuperati e rimessi in natura. Quest'anno sono stati tanti, da ricci, scoiattoli, istrici, tassi, volpi, caprioli. Ogni anno, soprattutto nella stagione primavera-estate, questo succede. Quest'anno più del solito, poi è stato un anno veramente intenso. Anche la storia di una capriola che è arrivata incidentata e che a causa dell'incidente stradale aveva perso i suoi 2 piccoli perché nati prematuramente. Contemporaneamente erano arrivati 2 piccoli da un'altra storia, perché raccolti incautamente, da, come spesso succede, e così in maniera molto molto fortunata siamo riusciti a farglieli adottare entrambi, il primo soprattutto con un accorgimento, spostando fra virgolette con la placenta del suo parto la prima piccola, che abbiamo chiamato Viola, e poi l'altro l'ha adottato comunque, insomma, a giro di un giorno o due di distanza, non di più. È stato molto bello rivederli proprio insieme, lei se li è portati come fossero stati figli suoi e abbiamo potuto rimetterli in natura. Avete avuto anche un affidamento importante, un laboratorio di vivisezione vi ha ceduto un macaco, una scimmia, prima che cominciasse il suo calvario. L'abbiamo dovuto in un primo momento tenere isolato e fare tutti i vari accertamenti sanitari. Quando abbiamo ottenuto le risposte negative a tutte qualsiasi patologia, abbiamo tentato l'adattamento, che io avevo già programmato, devo dire la verità, con un primate che noi abbiamo qua da moltissimi anni, un eritrocebo spata, si chiama Gerda. Lei è di una specie diversa rispetto al macaco, però quello che io avevo sempre notato è il suo grande senso materno. E in effetti è andata bene perché lui è molto piccolo e lei alla fine lo ha adottato. Ora sono insieme e sono veramente una tenerezza da guardare anche per i volontari che se ne occupano. Leggevo che all'inizio Yuri, questo piccolo macaco, era molto impedito nei movimenti in quanto tenuto in gabbia, costretto appunto nel laboratorio, non aveva una motorietà normale, però che ha fatto grossi progressi. Assolutamente sì, quando è arrivato nella strutturina dove l'abbiamo messo faceva fatica ad arrampicarsi. Adesso è nella struttura con Gerda, che è alta 4 metri, si arrampica dovunque, a corde, liane, amache, e comunque è molto molto più attivo rispetto all'inizio, chiaramente, ecco. Si capisce che è molto piccolo, comunque si rispettano tanto e comunque si grumano rapporti sociali. Vedo dal vostro sito che avete fatto grandi progressi anche per quanto riguarda le voliere dei pappagalli. Sono aumentati gli esemplari e soprattutto successivamente all'affidamento di due sequestri, uno dei quali abbastanza impegnativo perché sono 10 esemplari, avevamo necessità di allargare gli spazi. La struttura che abbiamo realizzato, a mio vedere, è veramente molto bella, consente sia agli animali di stare veramente tanto bene e anche ai volontari di gestirla nella maniera migliore. La soddisfazione di vedere quello spazio strutturato e grande. Infine c'è un altro ambizioso progetto, l'area lupo, che serve proprio per il recupero di questi particolarissimi animali e per finanziare la quale mi pare che voi stiate proponendo l'acquisto di certi cofanetti artistici. L'area lupo è un'area di 1200 metri quadri, molto bella, metà prato e metà bosco, quindi adatta anche ad altri scopi. E poi in questo momento ospita una volpe che è stata catturata da un incivile con una tagliola e alla quale è stata amputata, a causa appunto della tagliola, una parte della zampa anteriore. Al momento lei ha recuperato perfettamente dopo le cure e in questo recinto, in quest'area, sta facendo la sua riabilitazione. Comunque la parte successiva del progetto è già tutta stata preventivata, c'è proprio un progetto ben preciso e speriamo di poterla realizzare in tempi successivi. Questo cofanetto è stato una bella iniziativa da parte di questo fotografo naturalista così importante, che è Stano Untentieren, e che ha devoluto una parte appunto di questi calendari. Vediamo se riusciranno ancora a distribuire, saranno sicuramente importanti per portare avanti ancora il progetto. Troverete tantissime informazioni, oltre che nelle nostre prossime puntate, anche nel sito del centro, che è www.centrotutelafauna.org. Notizie, interviste, attualità. l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge. Sono al telefono con Gianni Tamino, biologo dell'Università di Padova. Molti di voi lo avranno già sentito da questi microfoni, lo abbiamo intervistato spesso anche per la trasmissione Questione di Stili, ex parlamentare sia italiano che europeo, da sempre ambientalista impegnato soprattutto sul tema degli impatti ambientali dei nostri stili di vita e di consumo. Ciao Gianni. Ciao. A te chiedo, rispetto alla settimana mondiale per l'abolizione della carne che si svolgerà quest'anno dal 22 al 27 di gennaio, quali sono gli impatti ambientali del consumo di carne? Non lo diciamo noi, lo dice l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che secondo un loro famoso rapporto i prodotti animali causerebbero più danni all'ambiente rispetto addirittura alla produzione di minerali, plastica o metalli. Nel pianeta ci sono 27 miliardi di capi di bestiame che occupano il quadruplo dello spazio della popolazione umana. Questo è ciò che dice l'ultimo rapporto del World Watch Institute sullo stato del pianeta del 2012. Una cifra impressionante, cioè quindi vuol dire che noi diamo da mangiare perché non diamo più pascoli, perché al pascolo solo una piccola quota di questo bestiame potrebbe essere allevato, ma diamo da mangiare enormi quantità di cibo, spesso buono anche per l'uomo, a animali che poi verranno utilizzati per la loro carne oppure per le uova oppure per il latte. In pratica è come dire che noi utilizziamo qualcosa come 4-5 volte il cibo di tipo vegetale, buono per l'uomo, per ottenere una quota pari a un quinto o addirittura in certi casi nei bovini un decimo di prodotto utilizzabile a livello umano. Questo significa in altre parole che noi stiamo sprecando enormi quantità di cibo, non solo perché lo buttiamo via, lo sprechiamo come rifiuti, ma enormi quantità di cibo direttamente commestibili dall'uomo sono trasformati attraverso questo processo in una quota molto più limitata. Se il pianeta volesse nutrirsi con quantità enormi di carne come quella degli europei e degli statunitensi, che è circa 100 kg pro capite l'anno, noi avremmo cibo per 2-3 miliardi al massimo di abitanti, mentre invece il cibo vegetale prodotto è sufficiente, secondo i dati della FAO, per qualcosa come 12, tra i 10 e i 12 miliardi di persone, molto di più della popolazione attuale. Questo è il primo dato che già dovrebbe essere abbastanza sconvolgente. L'impatto sull'ambiente è enorme perché abbiamo distruzione di foreste per far posto a pascoli che poi spesso diventano zone desertificate, enormi consumi di acqua, enormi consumi di energia e enormi produzioni di metano. Allora, questo vuol dire per esempio che, se ci limitiamo all'aspetto del metano, che da un chilo di manzo si ha l'equivalente di quello che si produrrebbe come gas serra guidando un'automobile per 3 ore e nel frattempo lasciando tutte le luci della casa accese. Solo per dare un'idea, in realtà questo significa che un terzo circa del metano prodotto è prodotto da bovini e in generale da animali ruminanti e erbivori alimentati soprattutto con cereali e legumi, quindi con mangimi. Questa enorme quantità di animali allevati produce enormi quantità di metano e il metano ha un impatto 20 volte superiore all'anidride carbonica nel determinare l'effetto serra. Questo è il motivo per il quale, ad esempio, il premio Nobel per la pace dato a suo tempo all'IPCC, cioè al panel internazionale sui cambiamenti climatici, a nome del proprio presidente, disse: non mangiare carne, andare in bici e consumare in modo frugale è il miglior modo per evitare il riscaldamento globale. Questo credo faccia capire quale sia l'impatto proprio ambientale, tenendo conto che gas ad effetto serra sono purtroppo aumentati. Le emissioni sotto forma di liquami zootecnici stanno aumentando l'eutrofizzazione dei corsi d'acqua e alterando le nostre falde. La FAO appunto qualche tempo fa diceva che oltre ad questo impatto c'è una riduzione del 20% e anche più forse della biodiversità dovuta proprio al diretto impatto sull'incremento degli animali da allevamento. Per dare un'idea ancora sugli impatti, i consumi d'acqua sono dell'ordine di migliaia di litri per chilo. Al confronto di 400 litri d'acqua per chilo per patate, abbiamo 90.000 litri per un chilo di manzo. In altre parole, una persona consuma negli Stati Uniti meno acqua facendo la doccia tutto l'anno che mangiando una bistecca da mezzo chilo. Il World Watch Institute lo mette in altri termini, dice per ogni chilo di carne ci sono 108 metri cubi d'acqua consumati. L'energia è la stessa cosa, cioè noi abbiamo che mentre per i vegetali bastano anche con un'agricoltura sbagliata come quella industrializzata dipendente da pesticidi e da fertilizzanti, servono 2 calorie di combustibili fossili per caloria prodotta, per la carne di manzo servono 78 calorie di combustibili fossili per caloria mangiata, il che vuol dire che noi abbiamo un consumo enorme anche di energia per alimentare un sistema che oltretutto non è conveniente, perché se da una parte questo impedisce a gente di mangiare, dall'altra inquina l'ambiente, ma è anche vero che chi mangia molta carne ha molti più rischi dal punto di vista della propria salute di chi abbia una dieta vegetariana o meglio ancora vegana. Se noi vogliamo garantire un futuro al pianeta, dobbiamo quantomeno drasticamente ridurre i consumi di carne e ridurre l'allevamento. Già se riuscissimo a spostare l'allevamento intensivo all'allevamento al pascolo, che vorrebbe dire ridurre di almeno 5-6 volte la massa di animali allevati, sarebbe già un importante passo avanti. Per fare questo ovviamente bisogna che i consumi di carne siano drasticamente ridotti là dove sono maggiori, e questo anche per dare un messaggio ai nuovi paesi in via di sviluppo, Cina, India, Indonesia, che se decidessero solo questi di consumare quanto noi, non ci sarebbe più possibilità di allevare niente. Noi consumiamo 90 kg in media pro capite, ma il Lussemburgo quasi 140, gli Stati Uniti più di 120, l'Australia 120, la Spagna 105. Se si volesse raggiungere quel valore medio di 100 kg pro capite, il mondo collasserebbe se i paesi nuovi emergenti ne volessero consumare altrettanto. Quindi non è possibile. Bisogna far capire che il futuro richiede una drastica modifica delle caratteristiche che abbiamo intrapreso, soprattutto dopo il boom economico, quasi più come status symbol di mangiare carne. E invece far anche capire che questo non è una rinuncia, ma è un miglioramento della qualità della nostra vita, perché ne guadagna la nostra salute, oltre che l'ambiente, ma ne guadagna anche il nostro palato, perché la varietà di cibi vegani e vegetariani che si possono realizzare, quindi non è una rinuncia che si deve chiedere, ma un miglioramento della qualità della propria vita. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie. In questi tempi cinici in cui tutti più o meno conviviamo con la sottile ansia di vederci degradare nella scala sociale e in cui l'attenzione è tutta riposta sulla conservazione delle sicurezze materiali, c'è un uomo a Ravenna che ha pianificato in modo lucido e grintoso di devolvere la sua esistenza, fino alle estreme conseguenze, a una causa animalista. Vi riproponiamo oggi l'intervista che abbiamo realizzato a Davide Battistini e che è già andata in onda nella edizione di Restiamo Animali, mattutina in pillole, di giovedì scorso. Davide Battistini è un uomo di Ravenna che sta digiunando dal 1° di gennaio per chiedere una legge regionale che in Emilia-Romagna impedisca ai proprietari di cani di tenerli legati alla catena anche per tutta la loro esistenza. Ci sentiamo in sintonia profonda con le idee che ha espresso e approviamo il metodo non violento ma allo stesso tempo incisivo col quale Davide sta affrontando la sua battaglia. Le sue parole ci hanno emozionato e sentiamo forte il bisogno di creare attorno a lui il calore umano e l'attenzione mediatica che merita. sto cercando di ottenere dalla giunta regionale, dal governo dell'Emilia Romagna, che si abolisca la catena come mezzo di detenzione per il governo dei cani. Tutta Italia purtroppo ha questa usanza medievale, i regolamenti non sono omogenei, come se si parlasse di cani triestini e cani palermitani. I cani hanno tutte le stesse esigenze definite dall'etologia, però ci troviamo ad avere un regolamento come Ferrara che permette la catena solo per 8 ore al giorno, a Modena che lo permette per 24 ore al giorno e addirittura non specifica nemmeno la lunghezza della catena, ma parla di catena adeguata al cane, che non significa nulla. E questi cani vivono una non vita. Dietro questa proposta di civiltà, se verrà accettata, non vengono messi in difficoltà interessi economici o posti di lavoro. Dietro la catena ai cani non vi è nulla se non il Medioevo. Basta avere la volontà di scrivere una legge che la Giunta ci mette un minuto a scriverla e un minuto ad approvarla. Davide, tu da Capodanno hai preso questa decisione. Come la conduci questa campagna? Oltre a metterti a digiuno, che cosa fai per pubblicizzarla e per allora, fare pressione? Ho preso 2 mesi di ferie che ho accumulato nel mio lavoro, passo tutta la mia giornata e gran parte della notte, perché con il digiuno si ha un'esigenza di dormire veramente minima, io dormo 3-4 ore per notte, lavoro tutto il giorno al blog, aggiornare il blog, cercare informazioni. Oggi ho scritto la mail al governatore Vasco Errani per chiedergli di intervenire e gli ho detto che il mio sciopero è nelle sue mani, cioè io tornerò a mangiare quando lui deciderà di far propria questa proposta di civiltà. Questa non è una protesta, ma io chiedo che la mia regione, la regione in cui vivo, diventi un posto migliore e spero che una volta che sarà così, e spero presto, nel giro di qualche mese, le altre regioni italiane ci seguano. Su www.petizionepubblica.it, alla categoria diritto e giustizia, c'è una petizione da firmare, che si sia residenti oppure no in Emilia Romagna non ha importanza, perché poi filtro attraverso il CAP le firme da consegnare al governatore. L'indirizzo del blog è scatenarediritti.blogspot.com, lo ripeto, scatenarediritti.blogspot.com, è un blog da diffondere, bisogna tenere alta l'attenzione dei media. Io sono diventato vegetariano nel 1985, vegano sono da 2 anni, perché bisogna essere coerenti con i propri ideali, non si può però dire che si è animalisti, poi si mangia carne, si mangia pesce, si mangiano uova, perché si finanzia un'industria che sfrutta non solo gli animali, come è evidente, ma come ormai è accertato, distrugge il clima e sottrae cibo agli affamati del terzo mondo. Sono animalista quindi da quasi 30 anni, provo questa voglia di migliorare la vita agli animali, non mi sento per niente sbagliato quando mi criticano dicendo occupati di problemi ben più gravi. Se ognuno facesse la lotta per cui sente, ha del sentimento, tutta la società avrebbe un miglioramento generale. Il problema è che in questa Italia, ormai allo sfascio, abbiamo dei cittadini che credono di avere il diritto di delegare ad altri la lotta che loro non fanno, e mentre chi lotta sta fuori al freddo, loro rimangono al calduccio nel loro divano. E questa è una cosa che è non solo indecente ma ridicola. C'è un libro che è appena uscito in libreria che si chiama L'intransigente di Maurizio Viroli, dove proprio cito in una pagina l'abitudine tutta italiana di gettar fango su chi cerca di impegnarsi per la società. È un modo per le persone che hanno un livello culturale veramente basso e comunque un livello di civiltà infimo di sminuire l'attività degli altri per sentirsi un po' meglio. Voglio ricordare che la Suprema Corte, la Corte di Cassazione, ha dichiarato nel 2003 che gli animali devono essere trattati con compassione, con umiltà e con amore. Quello che noi animalisti diciamo da centinaia di anni, perché il primo animalista credo sia stato Leonardo da Vinci, adesso lo dicono anche nelle più elevate stanze del diritto. È ora che i politici facciano loro e calino sul territorio e nelle leggi, nella società, le parole e le sentenze della Cassazione, che si ha l'obbligo di metterle in pratica. Ho deciso che la mia vita la dedico ai diritti degli animali, sono una persona progressista di sinistra, credo che la vita non abbia valore per la somma dei giorni, ma abbia valore per come riempi questi giorni. E questo sciopero della fame lo porterò avanti fino alle estreme conseguenze. Le catene che legano gli animali non umani sono le stesse catene che hanno legato e che legano tuttora gli animali umani nei centri di identificazione ed espulsione, nelle carceri indecenti, negli ospedali psichiatrici giudiziari dove i malati mentali vengono abbandonati, negli ospizi dove i vecchi vengono legati per non essere badati e non disturbare. Non sono né un eroe, né un santo, né un monaco. Io sono solo una persona civile che a un certo punto ha detto basta, e quando dici basta sul serio devi essere deciso. Le lotte di liberazione hanno un costo da pagare, perché il risultato che ti vuoi portare a casa è un risultato importantissimo di civiltà. Vivi in una specie di succo arabo con un mucchio di coperte per terra e dentro ci sono i miei sei cani tutti randagi. Sei cani che anziché avere 24 zampe ne hanno 22 perché due sono senza una zampa. Al piano di sopra, che è un ex granaio da finire da ristrutturare, ci sono 9 gatti tutti randagi. Tu, volendo portare alle estreme conseguenze il tuo digiuno, hai pensato a loro e al loro futuro? Io ho pensato al loro futuro, non sono in grado di garantirglielo al 100%, nel senso che nel momento in cui la cosa si fa tragica farò testamento, e ho un amico animalista vegano a cui metterò nel testamento che deve badare a tutti gli animali che ci sono. È chiaro che dovrei garantire un futuro certo a loro, ma siccome la battaglia la faccio per loro, loro combattono insieme a me, pagano un prezzo insieme a me. Considerando che vengono tutti quanti dal canile, se potessero parlare mi direbbero di andare avanti. Davide Battistini, restiamo animali? Certo, restiamo animali. Il blog di Davide Battistini è scatenarediritti.blogspot.com. Nel blog sono reperibili le istruzioni per firmare la petizione lanciata da Davide, che può essere sottoscritta sia da cittadini dell'Emilia-Romagna sia da cittadini di altre regioni. Restiamo Animali ha già aderito a questa campagna. Interesse alla vita, ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so. Ciao a tutti, sono Sara. E oggi vi spiego un primo sostanzioso, tradizionale e che piacerà a tutti. Si tratta di ravioli di zucca e patate. La preparazione è un po' lunga, ma vi assicuro che ne vale la pena. Gli ingredienti sono, per il ripieno, 400 g di polpa di zucca già cotta, 250 g di patata già cotta, uno spicchio d'aglio, 4 cucchiai di pane grattugiato, 4 cucchiai di lievito alimentare, ma questo ingrediente è facoltativo, un rametto di rosmarino, un rametto di salvia, un pizzico di noce moscata, sale e pepe. Per la pasta invece, 250 g di farina di grano tenero, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, un cucchiaino di curcuma, sale, pepe e acqua quanto basta. Con queste dosi otterrete circa 35 ravioli, ovviamente dipenderà da quanto li volete grandi. Iniziamo dal ripieno. Cuocete la zucca e la patata. Io le ho cotte a vapore, se volete far prima potete anche lessarle. Mettetele in una ciotola con aglio, rosmarino e salvia ben tritati, sale, pepe e noce moscata. Passate tutto velocemente con il mini pimer, formando una crema omogenea. aggiungete il pan grattato e il lievito alimentare. Assaggiate la crema ed eventualmente aggiustate di sale se vi sembra ancora un po' troppo dolce e lasciate riposare al fresco. Prepariamo ora la pasta, semplicissima. Impastate la farina con la curcuma, l'olio, sale e acqua, aggiunta poco alla volta, sino ad ottenere un bel impasto elastico e facilmente lavorabile. Impastate energicamente per una decina di minuti. Poi viene la parte impegnativa, non difficile, solo un po' lunga. Dividete in due l'impasto e, armati di mattarello e santa pazienza, tiratelo sino ad ottenere una sfoglia sottile. Ah, se avete in casa la macchina per tirare la pasta, per amor di Dio, usatela. Ricavate dalla sfoglia tanti cerchietti. Io, per dire, ho usato un bicchiere. Su ogni cerchietto versate un cucchiaio di ripieno di zucca e richiudetelo a raviolo. In pratica chiudete il cerchio di pasta a metà, poi afferrate le due estremità e le unite. È facilissimo. Stesso procedimento per l'altra metà della pasta. Quando avete tutti i vostri ravioli belli distesi, non vi resta che cuocerli in una pentola con abbondante acqua salata, bollente, per qualche minuto. Scolateli delicatamente con un mestolo forato e gustateli subito con il condimento che preferite. Vi assicuro che con questi ravioli farete un figurone. Ciao, alla prossima! Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me. Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. Info e suggerimenti a restiamoanimali@gmail.com. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.